24, i gialli della storia. Il 23 novembre del 57 esce in Italia, in contemporanea in tutto il mondo, il primo grande bestseller dell'editoria moderna. È il Dottor Zivago di Boris Pasternak. A pubblicare il romanzo, che 8 anni dopo diventerà un film famosissimo, è un giovane editore di 31 anni, Gian Giacomo Feltrinelli. Ma la vicenda editoriale del Dottor Zivago è anche una storia complessa e misteriosa, piena di colpi di scena, di arresti, di processi, di lettere storte, di lettere mai arrivate a destinazione. Sullo sfondo la guerra senza esclusione di colpi tra il KGB e la CIA e il conflitto segreto tra il potere sovietico e i comunisti italiani. Oggi a Mix 24 racconteremo questa storia con le testimonianze di Carlo Feltrinelli, figlio di Gian Giacomo, e Sergio D'Angelo, giornalista di Radio Mosca. È la storia di una grande battaglia editoriale, credo tra le più affascinanti che ci siano state tra un editore e un autore che non avevano mai l'opportunità di conoscersi. Giacomo Feltrinelli mi aveva proposto, ed io avevo accettato, di fargli lo scout a Mosca per quegli autori e quei libri che potessero interessare, in quanto una certa novità erano rispetto al passato, cioè al periodo che aveva preceduto la morte di Stalin e poi al disgelo. Febbraio 1956. In Unione Sovietica è iniziato il disgelo, la campagna politica legata alla critica di Stalin. Si attendono le riforme iniziate con il rapporto segreto di Khrushchev, che per la prima volta aveva denunciato i crimini di Stalin. Ma il disgelo, quel tentativo di modernizzare il sistema sovietico, rinunciando alle abominevoli manifestazioni dello stalinismo, aveva avuto un colpo d'arresto nell'autunno del 56, quando i carri armati sovietici entrarono in Ungheria per bloccare l'insurrezione. Da quel momento non si parlò più del terrore di massa, culto della personalità, repressioni nella sfera culturale messe in atto da Joseph Stalin. Nel 1956, esattamente alla metà di marzo, io ero stato mandato a Mosca dal Partito Comunista perché i sovietici mi avevano accettato per fare il redattore e il giornalista presso la redazione italiana di Radio Mosca. Gavarit Moskva, parla Radio Mosca. Gavarit Moskva, parla Radio Mosca. Radio Mosca, che diffonde il verbo sovietico nel mondo, è formata da almeno 30 redazioni straniere. Quella italiana nel 1956 è tenuta in particolare considerazione dalle autorità sovietiche. Il Partito Comunista Italiano, il più forte e influente tra tutti i partiti comunisti d'Occidente, dipendeva in termini logistici e finanziari da Mosca. Il lesto Sergio D'Angelo capta una notizia a Radio Mosca. Il 10 maggio 1956 io ero in redazione e stavo lavorando su un bollettino culturale fatto di varie notizie che erano brevi, e una di queste, me la ricordo perché la trascrissi, diceva che il Dottor Zivago di Boris Pasternak era un romanzo che sarebbe uscito imminente. Si trattava di bloccare in qualche modo il manoscritto e quindi di arrivare a mettere in cantiere un'edizione italiana, pensando che il libro sarebbe uscito nell'Unione Sovietica. Tutto è ancora quieto nella dacia di Pieridielkino, a 20 km a sud di Mosca, dove vive il poeta Pasternak, accanto ad altri intellettuali di spicco, ospitati dall'Unione degli Scrittori. Feltrinelli si accorse che la situazione diventava delicata da subito, perché da un lato era comunque, diciamo, insolito pubblicare un manoscritto, arrivare su un manoscritto di un autore russo, sovietico, e pubblicarlo in Occidente. Quando vi furono le prime avvisaglie di una che ci sarebbero state delle difficoltà per la pubblicazione in Unione Sovietica, a quel punto evidentemente il problema era evidente e conclamato. Maggio 1956. Bastano appena 2 mesi per creare il caso dal nulla. Il poeta russo e l'editore milanese, comunista e finanziatore del PC, stabilirono da subito un codice per comunicare. Gian Giacomo Feltrinelli e Boris Pasternak non potevano mai incontrarsi, perché Feltrinelli non poteva avere il visto per l'Unione Sovietica e Pasternak naturalmente non poteva muoversi da lì. E la convenzione che riuscirono a misura appunto fu quella di comunicare via lettera con un preciso codice. Solamente le lettere in francese sarebbero state quelle veritiere. A tutte le altre non si sarebbe dovuto credere. Il 20 maggio, una bellissima giornata di sole, io andai all'appuntamento che avevo preso con Pasternak, arrivai a Piridielchino alla dacia. Pasternak era in giardino, ricordo che lui entrò nella casa e dopo mezzo minuto venne fuori con un grosso pacco che era il dattilo scritto di questo romanzo. Ci congedammo sul cancelletto di questa casa. Pasternak mi disse: lei è invitato fin da questo momento alla mia fucilazione. Ma qual è il motivo per cui Pasternak sente di essere in pericolo? Lo racconta Jacqueline de Proyard, la procuratrice, e poi Vittorio Strada, amico di Pasternak, e ancora Sergio D'Angelo. Il signor Polikarpov, il capo della cultura al comitato centrale. A mio avviso tutto è partito da lui. Polikarpov rientra dalle vacanze nell'agosto del 1956, quando la rivista Novy Mir, che aveva il manoscritto, avrebbe dovuto pubblicare rapidamente il dottor Zhivago, legge il romanzo e dice che è impubblicabile. Pasternak non è antisovietico, è completamente non sovietico. E questo li ha colpiti più di tutto, li ha, come dire, inferociti più di una posizione, se ci fosse stata, politica. Qual è la differenza tra antisovietico e non sovietico? Pasternak sentiva di appartenere alla cultura russa prima della rivoluzione d'ottobre del 17, a quella cultura sopravvissuta ed esiliata in Occidente, non contaminata dall'ideologia comunista. Ma quali erano i passaggi più esorcizzati del romanzo? Sicuramente l'Armata Bianca, vale a dire l'esercito controrivoluzionario russo che combatteva durante la guerra civile contro l'Armata Rossa. La rivoluzione d'ottobre era dunque vista da Pasternak come una sciagura, un errore. E poi la degradazione fisica e morale dell'intellettuale, che diventa un miserabile mendicante. Quando sono arrivata a Mosca, Pasternak sapeva che il suo romanzo era stato rifiutato da Novy Mir. Per salvare la faccia gli chiesero una versione edulcorata, cioè di togliere quei passaggi che erano contro il comunismo. Volevano cambiare il suo modo di scrivere e lui disse no. Dunque sapeva il rischio che correva. Pochi giorni dopo la consegna del dottor Zhivago da parte di Pasternak, io andai a Berlino perché dovevo fare un cambio di visto sul passaporto. Mi misi in contatto telefonicamente con Feltrinelli. Mi disse subito che sarebbe venuto personalmente a ritirare questo pacco che era il manoscritto. Con Feltrinelli stemmo a Berlino Ovest, senza mai sconfinare a Berlino Est, per un paio di giorni. Subito avvenne la consegna, il passaggio del dottor Zhivago dalle mie mani alle sue, cioè dalla mia valigia, dove non era affatto nascosto, come hanno raccontato tante volte dopo illustri scrittori, ma era semplicemente galleggiante sulle mie camicie. I sovietici in qualche modo rimasero spiazzati dal fatto che il manoscritto era arrivato nelle mani di un editore straniero. Rimasero spiazzati dal fatto che questo editore era comunista e quindi in qualche modo pensavano che avrebbero avuto buon gioco nel in qualche modo fermarlo, manipolarlo e quant'altro. Ma che cosa c'è dietro la pubblicazione del romanzo da parte di Feltrinelli, giovane editore comunista e finanziatore del PC? Solo uno straordinario intuito editoriale o una provocazione al Partito Comunista Italiano? Sentiamo le sue parole in un intervento del 58 e poi il figlio Carlo. Non mi posi nessuna domanda su come catalogare l'opera di Pasternak e per i valori letterari ed umani del dottor Zhivago e perché, oltre a tutto, in Russia sembrava allora iniziare quello che fu detto, proprio dal titolo di un altro romanzo, il periodo del disgelo. La chiave di questo libro, Feltrinelli, era che è stata quella di dimostrare che con un libro si poteva mettere in scacco una potenza come l'Unione Sovietica. E questo, diciamo, condiziona moltissimo Feltrinelli anche negli anni successivi, quando lui va da Fidel Castro o si muove per il mondo per cercare di accaparrarsi dei diritti o delle testimonianze o degli autori importanti, in qualche modo è perché ha fatto Dottor Zivago. Ma intanto dalle carte segrete del KGB scopriamo che del romanzo di Pasternak si parla già il 24 agosto del 1956. Quindi Mosca sa già da subito che in Italia si sta per pubblicare il Dottor Zivago. Ma come hanno fatto gli agenti del KGB a scoprirlo? Ancora Sergio D'Angelo e Carlo Feltrinelli. Il KGB potrebbe aver saputo, è una mia ipotesi, questa notizia da due dirigenti italiani, Paolo Robotti e Ambrogio Donini, che io ero andato a trovare in una clinica vicino a Mosca, dove loro erano ospitati, ai quali avevo raccontato come erano andati i fatti, con l'aria appunto di non dire nulla di scandaloso. I due dirigenti però probabilmente si sono sentiti in dovere di mettere le mani avanti, perché ritenevano che io avessi fatto male a non chiedere un permesso. Mi dissero che per esportare i libri all'estero occorreva un permesso. E quindi può darsi che per scavarsi la coscienza abbiano ritenuto opportuno informare il KGB. Da quel momento incominciarono una serie di atti diplomatici, vennero in Italia a parlare con Feltrinelli e esercitarono le pressioni che sono ormai note sul Partito Comunista perché il Partito Comunista intervenisse su Feltrinelli. A questo punto emerge dalle vicende una donna bellissima, Olga Ivinskaya, l'amante di Pasternak, che in quel periodo era sposato con Zinaida, sua seconda moglie. Zinaida era la moglie del miglior amico di Pasternak, il musicista Neuhaus. Boris aveva avuto un figlio, Yevgeny, dalla prima moglie, Yevgeny Aluri. Ma la protagonista assoluta di questa vicenda nel romanzo e nella vita di Boris Pasternak è Olga Ivinskaya. Mia madre era la musa ispiratrice di Pasternak. Insieme hanno condiviso il periodo più difficile e lei ha pagato per il suo amore un grande prezzo. Ha trascorso 8 anni in tutto nei campi di lavoro. Non era affatto un rapporto sereno perché, come tutti sanno, Pasternak era sposato. Sua moglie era una donna molto rigida e lui era legato a lei. Ho incontrato Olga per la prima volta alla fine di maggio del 57. Siccome Pasternak era ricoverato in una clinica con una grave artrosi, Olga era venuta da me perché aveva subito delle pressioni dal capo dell'Unione degli Scrittori, perché in assenza di Pasternak costoro non volevano perdere tempo, speravano che Olga andasse da Pasternak quando andava a trovarlo in ospedale, anche per dirgli che avrebbe fatto bene a firmare una lettera a Feltrinelli dicendogli di soprassedere al suo progetto. Quando iniziò questa tattica di pressioni da parte del potere sovietico, mio padre lo fece sapere a Feltrinelli, avvertendolo di non dare retta a quelle lettere perché erano estorte. In quelle lettere lo obbligarono a scrivere che non voleva più pubblicare il suo romanzo. Olga la incontrai successivamente in condizioni di maggiore preoccupazione, perché Pasternak era uscito dall'ospedale ed era stato convocato al summit del partito, che teneva una riunione speciale per decidere come condurre l'operazione per bloccare l'uscita del dottor Zivago in Italia. Pasternak non andò a questa riunione e mandò Olga con un suo biglietto. Il biglietto diceva: io so che in questo paese, per dire la verità, bisogna affrontare grandi sofferenze. Bene, io sono pronto ad affrontarle. Intanto Feltrinelli è invitato a restituire il manoscritto originale dai due dirigenti del Partito Comunista, Pietro Secchi e Paolo Robotti, che avevano ricevuto ordine direttamente da Mosca di far rientrare il manoscritto. Al Sunday Times Feltrinelli racconta che all'epoca della pubblicazione del romanzo era ancora membro del PC e che in un colloquio con Togliatti, il segretario generale del partito, gli disse di non sospendere la pubblicazione ma di pubblicare in concomitanza con Mosca. Le pressioni da parte del Partito Comunista e da parte dei sovietici stessi, non dimentichiamo che il capo dell'Unione Scrittori venne a Milano e discusse molto animatamente con Feltrinelli, le pressioni furono tante e diversa natura. Lui credo capì che era una battaglia troppo grande, che la linea di fermezza era l'unica linea che si poteva in qualche modo adottare, quindi In un'occasione esiste un testimone che lo vide entrare in una riunione con i vertici del Partito Comunista e entrando lui disse: io tengo botta. Il 23 novembre del 57 il libro viene pubblicato in Italia ed è subito un successo clamoroso. L'editore rivelerà successivamente che pubblicare quel romanzo era come assumere una droga di cui non poteva fare a meno anche a costo di mettersi contro il suo stesso partito. Nel 58 a Pasternak viene conferito il Nobel per la letteratura, ma anche l'assegnazione del Nobel nasconde un segreto. Ancora Carlo Feltrinelli, Vittorio Strada e Sergio D'Angelo. Il Nobel a Pasternak fu un'idea dei servizi segreti americani per mettere in imbarazzo il Cremlino? C'è chi sostiene che la CIA avrebbe bloccato a Malta con una scusa e per qualche ora un aereo dove viaggiava Feltrinelli. Lo scopo era di estrarre da una valigia il manoscritto e fotografarlo. Il premio a Pasternak sarebbe stato ottenuto grazie a questo escamotage. Per il premio occorreva infatti presentare il manoscritto in lingua originale e non in lingua italiana. Io non credo che la CIA sia intervenuta per far dare il premio Nobel a Pasternak, perché Pasternak era già stato nominato dalla Fondazione di Stoccolma 7 volte per una possibile vittoria al premio Nobel per la letteratura. Certamente, e questo è il mistero di Pulcinella, nelle vicende anche del caso Pasternak, come i dissidenti successivamente, come nelle faccende culturali sovietiche, c'è stato sempre un interessamento e quindi una presenza da parte della CIA, come c'è stato nel caso Pasternak e in tutte le vicende culturali sovietiche, una presenza ancora più forte e in questo caso malefica da parte del KGB. Dopo il conferimento del premio Nobel a Pasternak il 23 ottobre del 1958 inizia un nuovo capitolo di quello che Olga ha chiamato il romanzo del romanzo. Il giorno dopo l'assegnazione del premio Nobel venne da mio padre il segretario dell'Unione Scrittori, Konstantin Fiedin. Fu lui a chiedergli di rifiutare il premio Nobel, in quanto il Comitato Centrale aveva dichiarato il romanzo antisovietico. Pasternak reagì alle minacce che susseguirono al conferimento del premio Nobel con disperazione, devo dire. Aveva deciso di farla finita con 12 pasticche di Nebutal. Voleva morire insieme con Olga. Pasternak era rimasto senza denaro e gli italiani a Mosca aiutarono come potevano il poeta scrittore a sopravvivere, inviando i cosiddetti panini rimessi in rubli e poi libri, abiti e una macchina da scrivere con i caratteri in cirillico di produzione italiana. Intanto il romanzo va a ruba ed è tradotto e pubblicato in 26 paesi. A questo punto i sovietici, messi di fronte a questo successo clamoroso per non screditarsi agli occhi del mondo, cambiano tattica. Pasternak viene formalmente riabilitato, ma la persecuzione nei suoi confronti continua. Ad essere colpita è ora una persona che gli è molto vicina, Olga Ivinskaya. Mia madre fu arrestata 2 volte, la prima nel 49 e la seconda nell'agosto del 60. Mia madre è stata accusata per la violazione dell'articolo numero 58,10. Era il famoso articolo del codice civile sovietico sulla propaganda e l'agitazione antisovietica. Quando dico che mia madre ha pagato un grande prezzo per questo suo amore, voglio dire il prezzo della prigione, della confisca delle poche e miserevoli cose che avevamo. Io e mio fratello, durante i 5 anni di lavori forzati di mia madre, siamo rimasti praticamente orfani. Rinchiusa nei sotterranei della prigione del KGB, viene accusata di essere lei la vera autrice del dottor Zivago e in più i suoi aguzzini vogliono scoprire se esiste un piano di fuga di Pasternak dall'Unione Sovietica. Ma lei non cede e allora le tendono una trappola e questa volta l'accusa è contrabbando di valuta. Ancora Sergio D'Angelo e Carlo Feltrinelli. L'ultima rimessa che fu fatta poco prima che Olga Ivinskaya fosse arrestata fu eseguita da 2 persone di mia assoluta fiducia che partirono da Roma con un maggiolino Volkswagen e arrivarono fino a Mosca con 2 borse, normali borse, dove aveva trasbordato i rubli che erano rimasti nascosti nella Volkswagen, nel maggiolino, andarono a casa di Olga e le consegnarono questa somma. Queste valigie mia madre le ha portate dalla vicina per nasconderle, ma eravamo sorvegliati e tutto ci è stato confiscato. Olga finì in galera il 23 agosto del 1960. Il 5 settembre sono stata arrestata io. Non come la principale accusata, ma come complice dell'organizzazione di contrabbando. Ho trascorso 3 mesi nella prigione sotterranea della Lubianka e dopo io e mia madre siamo state inviate in Siberia. In pieno gennaio era orribile, faceva meno 45 gradi. Ci avevano confiscato tutte le nostre cose, anche le tazze per bere. Ma avevo 20 anni e sopportavo molto bene. Mia madre ne aveva 50 e ha sofferto molto più di me. Però era sempre di buon umore, sapeva accettare anche gli eventi più tristi con ottimismo. Il dramma della prigionia che dovettero subire Olga Lubinska e sua figlia evidentemente sconvolse l'opinione pubblica italiana e internazionale e ovviamente Feltrinelli, il quale cercò di trovare delle mediazioni, di fare degli atti distensivi nei confronti delle autorità sovietiche. Spontaneamente consegnò alle autorità sovietiche una parte delle lettere che erano state inviate a lui da Pasternak. Olga e la sua figlia Irina hanno affidato, prima di essere arrestate, a 2 coniugi italiani, il Garritano, 2 fogli in bianco con la firma di Pasternak. Dovevano servire per un nuovo contratto con Feltrinelli. Quelle carte però non arriveranno mai in Italia. Che fine hanno fatto? Le 2 donne sono state tradite dai 2 coniugi italiani o è un nuovo espediente degli agenti sovietici? Ascoltiamo Giuseppe Garritano e la figlia di Olga, Irina. Erano i primi mesi del 60, poco prima che io partissi definitivamente da Mosca. Fu consegnata a mia moglie, da Olga, una lettera con le firme di Pasternak. La storia di queste lettere sparite, con in calce la firma di Pasternak, è ancora oggi una faccenda molto vaga. Mi fu offerto un viaggio nel Caucaso. E allora io partii per il Caucaso. Tu danku. All'improvviso, per caso, accadde qualcosa che ha a che fare con il vaudeville. Invece di rientrare subito in Italia, dopo la consegna di quella lettera, i Garritano sono partiti per il Caucaso. Non ebbi il tempo di dirlo a Irina. Hanno trascorso una serata danzante. Mirella, sua moglie, ha lasciato sulla sedia la sua borsa dove c'era la lettera. Poi lei ha ballato con qualcuno e quando è ritornata al suo posto, sulla sedia, quella lettera non era più nella sua borsa. La Lubinska credette che, essendo io comunista, avessi fatto la spia ai sovietici. E naturalmente è lo stesso che credo che fosse Feltrinelli. Quando sono tornato in Italia, fui chiamato da Longo, mi disse soltanto di tacere, di non dare ulteriore pubblicità a questa cosa. Pasternak non riuscirà a godere degli enormi diritti d'autore che il successo del suo libro ha procurato e che vengono versati in una banca svizzera dagli editori di tutto il mondo. Solo nel 1969, dopo una durissima trattativa, si risolverà la questione, ma Pasternak è morto 10 anni prima, il 30 maggio del 60. Nel 1964 Olga e sua figlia vengono liberate e riabilitate per insussistenza di prove. Sempre nel 64 Feltrinelli sottoscrive un accordo con la Metro-Goldwyn-Mayer per tradurre il romanzo in un film. Sarà un successo mondiale che lascerà il segno nella storia del cinema. Il romanzo invece sarà pubblicato a Mosca solo nell'89, solo dopo il crollo del comunismo. Khrushchev, prima di morire, confessa che quel romanzo non l'ha mai letto.